sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Atteso a minuti l'annuncio del premio Nobel per la letteratura. Dalla crisi ricadute pesanti, dice la Banca Centrale Europea, che inietta altri 100 miliardi di dollari sul mercato. Borse in lieve ripresa. La crisi dei mutui, la crisi dei dirigenti. Tra poco il racconto di chi ha perso il posto e poi lo ha ritrovato. Porta il figlio a scuola senza cintura di sicurezza. Fermato e ammanettato dai vigili di Milano un senegalese. O io o lei, dice Tremonti. La norma che salva i manager dei crack finanziari verrà cancellata. Contro la Gelmini, sciopero generale. I sindacati della scuola fermano tutto il 30 ottobre. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo nell'attesa naturalmente di sapere quale sarà il premio Nobel per la letteratura 2008. L'annuncio, come vi dicevamo nei titoli, dovrebbe arrivare a minuti. E parliamo ora di borse, lo stiamo facendo tante volte in questi giorni. Finalmente è tornato il segno più in Europa. Si tratta di piccole cose, ma insomma che sembrano dare un segnale positivo per quanto riguarda i mercati. Deborah Resciani, dettagli. Sì, allora diciamo che le borse hanno intenzione di prendersi una sorta di tregua rispetto ai ribassi violentissimi e pesantissimi che ha visto negli ultimi giorni, e quindi dopo i cali di ieri replicati, amplificati dalla seduta, una seduta che non ha avuto nessun effetto, che non ha risentito in alcun modo delle decisioni delle banche centrali, delle principali economie, di ridurre di mezzo punto percentuale il costo del denaro. Ebbene, dopo tutto lo sfacelo degli ultimi giorni, oggi la borsa si prende un sospiro di sollievo, ma non è niente di più, perché c'è un rialzo che è stato che ha raggiunto i 3 punti percentuali sulle principali piazze questa mattina, ma già è stato ridimensionato ovunque e in qualche piazza in misura anche abbastanza decisa, perché Francoforte adesso segna un rialzo di appena lo 0,8%, Parigi più 2,50 più decisa, Londra più 1,57, Milano più 2,10 sull'S&P MIB. Stanno rimbalzando i titoli del comparto bancario, i titoli del cemento, scendono i titoli legati alle utilities, al comparto difensivo, ma lo stato di allerta è sempre su livelli massimi, in sostanza. Nel frattempo, Deborah, e adesso torneremo ai mercati, è arrivato il premio Nobel per la letteratura, ne diamo lettura, Alessandra? Sì, è lo scrittore francese Jean-Marie Gustave Leclésiot, era tra l'altro uno dei favoriti per questa edizione del Nobel per la letteratura 2008, uno scrittore bretone, ma avremo modo di parlarne più approfonditamente fra poco. Deborah, invece con te vorremmo venire alla Banca Centrale Europea. Sì, intanto applaudiamo al fatto che non ci sia nessun giapponese fra noi e soprattutto questa volta ce n'è uno solo, perché ogni volta si Nobel ne abbiamo tre. E che riusciamo a pronunciare decentemente. Allora, Deborah, la Banca Centrale Europea ha immesso liquidità e ha anche, diciamo, parlato con voce preoccupata sulla situazione economica. Sì, questa mattina è stato diramato il consueto bollettino mensile della Banca Centrale Europea, dove sono state un po' ribadite le preoccupazioni che erano già emerse chiaramente ieri alla luce della decisione sulla riduzione del costo del denaro. Negli ultimi dati in arrivo dalla congiuntura dell'Eurozona, la BCE dice di trovare chiaro riscontro dell'indebolimento dell'attività economica nell'area, con una moderazione della domanda interna e l'inasprimento delle condizioni di finanziamento. Alla luce di questo, ovviamente, continua ad immettere liquidità sul sistema. Stamattina sono state annunciate diverse aste, la più imponente quella ad un giorno fino a 100 miliardi, ma tutto questo non basta a placare la tensione sul mercato interbancario, perché l'Euribor, nonostante i ribassi dei tassi di ieri, continua a viaggiare ancora sui livelli massimi dal 1994 al 5, in particolar modo quello a 3 mesi, quota 5,39%, per cui non c'è ancora nessuna fiducia fra le banche. Grazie allora Deborah Rosciani, il punto sulle borse sarà fatto come sempre anche alle 13.30, ma parliamo ancora di crisi finanziaria internazionale, perché questa mattina c'è stato un importante intervento del ministro dell'economia Giulio Tremonti, prima alla Camera di buon mattino alle 8.30, poi al Senato. Sì, un'informativa nella quale ha illustrato il decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri straordinario e ha nuovamente rassicurato i risparmiatori. Sentiamo Tremonti. Abbiamo ricevuto dalle autorità di vigilanza competenti, da Banca d'Italia, da Consob e da ISVAP, dati secondo cui il sistema finanziario italiano ha un sufficiente grado di capitalizzazione e di liquidità. Se ci sarà bisogno di interventi, saranno operati in base a questo decreto legge, che tuttavia, ripeto, è stato fatto non nella logica dell'azione, ma solo nella logica della precauzione. Tremonti ha dunque escluso il fallimento delle banche, ma anche garantito che non ci sarà alcun sostegno ai manager che hanno sbagliato. Sentiamo. Non è nell'interesse del Paese che una banca fallisca, è nel potere del Governo evitare che una banca fallisca. Quando c'è bisogno di capitale, il Governo mette capitale e non lo fa per ritornare la politica e il Governo nelle banche, lo fa per una ragione diversa di generale interesse pubblico. Il nostro Andrea Viali ha intervistato sulla crisi finanziaria e sulle parole di Tremonti il ministro ombra dell'economia del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Esaustive? Proprio no. Se consideriamo che noi siamo di fronte alla più grande crisi dal 29 e che abbiamo avuto un dibattito in cui gli interventi erano contingentati in 5 minuti, sulla base di una relazione che ha fatto un po' di cronistoria, ha illustrato alcune decisioni, certamente ragionevoli, ma assolutamente insufficienti perché non vanno al tema dell'economia reale in questo momento. Si può parlare solo di banche, qui ci sono di mezzo temi che riguardano la piccola impresa, che riguardano l'andamento dei redditi delle famiglie. Se non le prendiamo da lì, noi... Non possiamo iniettare fiducia nel sistema, quindi benissimo interventi sulle banche, ma noi pretendiamo, chiediamo che in questo decreto ci siano misure immediate di defiscalizzazione, di detrazioni fiscali per i redditi medio-bassi e misure per costituire un fondo di garanzia o di controgaranzia forte, solido per il sistema delle piccole e medie imprese che adesso non riescono ad accedere al credito. Per quanto riguarda questo emendamento, questa norma salva manager, lei è stato un po' severo oggi con il ministro Tremonti? Ma no, dice che lui se non tolgono l'emendamento se ne va. Io gli ho solo detto, beh, non andar via da solo, prenditi su tutta la maggioranza che l'ha proposto e l'ha votato. Non è affatto vero che l'opposizione non si è accorta dell'emendamento. Sarà forse il sistema dell'informazione che non so, non tocca mica solo l'opposizione guardare le carte. Allora, noi abbiamo votato contro un emendamento improvviso presentato in aula che riguarda appunto il salva manager. Benissimo che adesso questo tema sia stato posto all'evidenza. Ne sono passate tante di cose di cui non c'è. Quando dicevamo qui le cose si fanno di notte, si fanno all'improvviso. Che so, si parlava di mutui, io credo che ho detto al primo momento che era un bidone quella cosa lì che coinvolgeva 3 milioni di famiglie. Adesso tutti si accorgono che è un bidone, voglio dire, però capisco le lune di miele, ma bisogna che tutto quanto il sistema, insomma, dia un po' un'occhiata alle cose che succedono, perché ne stanno succedendo di molto curiose, ecco. Lo avete sentito nell'intervista a Bersani che veniva citato anche Tremonti a proposito di questa dichiarazione del ministro stamattina: sono disposto ad andare via se non sarà modificata questa norma contenuta all'interno del decreto Alitalia, che di fatto avrebbe potuto prevedere, insomma, evitare più che altro la condanna di personaggi come Cragnotti, Geronzi e Tanzi coinvolti nei crack Cirio e Parmalat. Una denuncia appunto che ha costretto Tremonti ad intervenire. Ebbene, sentiamo. Report ci mise lo zampino e il ministro dovette correre ai ripari. Questo è l'epilogo, ma facciamo qualche passo indietro. Tutto ha inizio in aprile, quando è ormai chiaro che bisogna rimettere mano al decreto Marzano per farci rientrare anche all'Italia. Il documento viene accuratamente modificato, il decreto legge porta la data del 28 agosto. A questo punto però va convertito. Al Senato la discussione fila, il 2 ottobre viene approvato e il testo viene trasmesso alla Camera, pronto per il passaggio conclusivo. Un passaggio che sarebbe filato via altrettanto liscio sotto il naso dell'opposizione, se la Gabanelli non ci avesse messo lo zampino. Nel passare ai raggi X la vicenda all'Italia, spunta fuori l'articolo 7 bis, applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare. Già il titolo induce a pensare male. In poche parole, lo stato di insolvenza non è più equiparato al fallimento. Questo vuol dire che i reati fallimentari saranno perseguibili solo se, anche durante l'amministrazione straordinaria, sarà decretato il fallimento. L'articolo non è un esempio di chiarezza, ma il senso è evidente. Potrebbero saltare processi eccellenti, futuri e in corso, perché varrebbe per Alitalia, ma anche per Parmalat, Cirio e Giacomelli. Tradotto in persone si parla di Geronzi, Tanzi, Cragnotti e lo stesso Giacomelli. No fallimento, no reato. E in questo momento, con i mercati in subbuglio, miliardi di risparmi al vento e una moralizzazione da imporre ai manager sbandierata da ogni dove, stona un po' anche alle orecchie di Giulio Tremonti, che stamattina si è ritrovato a dire: o va via l'emendamento o va via il ministro. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Secondo l'Unione Europea, entro il 2012 il 50% degli acquisti pubblici dovrà essere fatto rispettando i criteri ambientali. L'Italia è lontana dall'obiettivo, ma almeno dall'aprile scorso ha un piano d'azione nazionale sulla Green Public Procurement, in italiano acquisti verdi della pubblica amministrazione. Se ne parla in questi giorni al Forum Internazionale degli Acquisti Verdi a Cremona. Silvano Falocca è tra gli organizzatori e Laura Bettini l'ha intervistato. Gli acquisti essenziali sono semplici, sono ad esempio l'acquisto di tutti i prodotti elettrici ed elettronici, l'acquisto della carta e quindi dei prodotti di cancelleria, l'acquisto dei mezzi di trasporto, l'edilizia, che è uno dei settori chiave, l'alimentazione, ovvero nelle mense, nelle macchine che distribuiscono cibi e bevande, occorre tener conto ad esempio delle filiere corte. Questa platea di acquisti ammonta oggi a 130 miliardi di euro l'anno, quindi convertire il 30% significa mobilitare 40 miliardi di euro l'anno, con notevoli effetti sull'economia. E che effetti avrebbe se tutti facessero quello che è stato richiesto sull'ambiente? Ecco, sull'ambiente diciamo gli effetti sono essenzialmente in tre ambiti. Il primo è quello della riduzione dei consumi di energia, il secondo è, ed è collegato a questo, è ridurre le emissioni di CO2, il terzo invece è ridurre l'uso delle risorse naturali, ovvero consumare meno materie, utilizzando meglio le possibilità date dal recupero, dal riciclo, dal riutilizzo. Le 13:16, GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Il Nobel per la letteratura assegnato questa mattina al francese Jean-Marie Leclésiot. Gli accademici di Stoccolma lo definiscono autore di nuove sperimentazioni, avventure poetiche e di sensuale estasi, esploratore di un'umanità dentro e fuori la civiltà imperante. Nuova iniezione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea. La BCE ha immesso sul mercato 70 miliardi di euro. Secondo la Banca Centrale Europea l'incertezza è straordinaria e la ripresa ci sarà forse nel 2009. Le borse sono in parziale recupero con rialzi intorno al 0.5%. Sarà eliminata dal decreto per Alitalia la norma che metteva in salvo i manager protagonisti dei crack finanziari. La legge prevedeva che non si potesse procedere penalmente nei confronti di chi era alla guida di aziende poi commissariate, ma solo in caso di fallimento. Il ministro Tremonti ha detto: o si toglie quella norma o mi dimetto io. Scuola, arriva la linea dura dei sindacati. Sciopero il 30 ottobre per protestare contro i provvedimenti varati dal ministro Gelmini. Questa sera voto finale alla Camera sul decreto, poi toccherà al Senato. Fermato e ammanettato da 5 vigili perché il figlio non aveva la cintura di sicurezza. È successo ad un senegalese a Milano. Proteste dagli altri genitori che hanno assistito alla scena avvenuta davanti al bambino. E nella storia d'Italia il 2008 è stato anche l'anno che ha fatto segnare l'arrivo del maggior numero di stranieri, più 17%, con quasi mezzo milione di persone in più. Lo ha detto oggi l'Istat. I rumeni arrivati in Italia sono stati 280.000. Il lato umano della crisi finanziaria. In questi giorni stiamo parlando molto dell'andamento negativo delle borse. Diamo cifre, sentiamo i politici e le istituzioni che rassicurano, diamo voce agli esperti che fanno previsioni. Ma dietro questi numeri, con il segno meno spesso, ci sono anche situazioni personali molto pesanti. Non solo chi non riesce ad arrivare con il proprio stipendio a fine mese, ma anche chi uno stipendio all'improvviso non se lo ritrova più. Caro direttore, un venerdì di qualche settimana fa ci hanno riunito per dirci: da lunedì ogni attività è sospesa. È una lettera pubblicata dal Sole 24 Ore, a firma Mauro Muraro. Muraro, poi che cosa è successo? Buongiorno a tutti, poi è successo che ci sono stati 2 mesi di trattative sindacali e l'azienda comunque ci ha concesso di continuare ad andare in ufficio, ci ha pagato gli stipendi anche di luglio e agosto, poi si è chiuso un accordo sindacale e nel frattempo qualcuno è riuscito a trovarsi un lavoro e comunque dal 1° di settembre circa 80 persone sono a casa, chi è riuscito a ricollocarsi, alcuni invece sono proprio a casa. Di che azienda parliamo e lei che cosa faceva in questa azienda? L'azienda è la Macquarie Bank, la succursale italiana di una banca australiana che in Italia operava sul mercato dei mutui. Io in particolare ero un marketing manager e mi occupavo di business support verso la rete. Come l'azienda vi ha spiegato questo, diciamo, licenziamento in tronco per molte persone? Ma Allora, primo non è stato un licenziamento in tronco, ma è stata una dichiarazione di chiusura di attività, dopodiché l'azienda sapeva che comunque avrebbe dovuto risolvere il problema degli esuberi. E la motivazione è stata molto semplice: la crisi dei mercati finanziari, in particolare per un'azienda che eroga mutui, la difficoltà di questo momento, ma diciamo di tutto il 2008, è quella di fare funding, cioè di trovare i soldi da prestare ai consumatori. E quindi Mercuri usava un modello di business basato sulla cartolarizzazione ed è un modello di business che ad oggi non esiste più. E quindi per questo motivo ha ritenuto necessario e opportuno sospendere le attività in alcuni paesi, Stati Uniti, Italia e Australia, proprio sul mercato dei mutui, ma essendo l'Italia una branch monoprodotto, praticamente ha significato la chiusura della filiale italiana. Dal punto di vista di un dirigente, un fatto di questo genere nella vita, che cosa vuol dire? Insomma, costringe anche in qualche modo a cambiare prospettiva? Sicuramente sì, perché insomma, nel ciclo di vita di una persona, la fase dei 40 anni è la fase in cui si è maturi, in cui si stanno realizzando anche economicamente dei ritorni di tutti gli investimenti fatti in passato, in formazione, in scuola, in la cosiddetta gavetta. Quindi in questo periodo le persone, almeno i manager o le persone che riescono a raggiungere posti importanti, dispongono di redditi mediamente elevati e pensano anche al loro futuro, al futuro dei loro figli, a comprarsi una casa nuova, e quindi si fanno dei progetti su uno stipendio che comunque è importante, e quindi la perdita del lavoro mette in discussione tutti questi progetti, queste ambizioni e comunque diciamo anche un po' i desideri del quarantenne, che comunque è diciamo nel punto, non dico massimo, però in un buon punto della sua carriera. Muraro, quanta gente conosce che come lei ha subito la stessa sorte, al di là delle persone della stessa azienda? Che voci sente, che aria circola nel mercato e nel mercato del lavoro, nel suo mercato del lavoro? Allora, a parte i colleghi, proprio stamattina ho sentito un amico che lavora per una banca islandese, che come sapete è un momento di difficoltà a parte finanziaria, proprio il paese Islanda sta vivendo una situazione drammatica. E poi ho un amico che lavora in Lehman, che lavorava, e non solo, ho degli amici che lavorano, un amico in particolare che lavora nel settore alimentare, dove è stato chiuso uno stabilimento. Quindi diciamo che nel mio piccolo mondo ho almeno una decina di persone, di amici, che stanno vivendo problemi di lavoro, nel mondo finanziario in particolare, ma non solo, quindi sicuramente non è un momento di mercato, diciamo, ottimo. Prima lei citava, a proposito della sua azienda, che 80 persone si sono ritrovate più o meno nella sua stessa situazione. Ha idea di quante di queste siano riuscite poi a ricollocarsi come ha fatto lei? Allora, molte persone, 80 persone dei profili completamente diversi. Quindi partiamo da una persona che lavora in un back office con un'età che va dai 20 ai 30 anni, fino a manager e dirigenti. Diciamo che la parte che molti si sono ricollocati, molti dei back office sono riusciti a trovare lavoro in altre banche, perché comunque diciamo che la parte operativa del mondo bancario rimane molto operativa, quindi le banche non è che non fanno più il loro business, le persone che lavorano agli sportelli e nei back office ci sono ancora e hanno molto lavoro, quindi tutti i profili medi sono riusciti, non proprio tutti, però molti si sono ricollocati. Poi ci sono anche delle persone, c'erano delle persone che hanno un'età diciamo tra i 40 e i 50 anni, queste sono quelle che stanno facendo più fatica, proprio per la loro età, per la loro esperienza, e perché in Italia comunque ricollocarsi gli over 40 fanno fatica, perché le aziende preferiscono prendere, non so, un trentenne neolaureato e fargli un contratto a tempo determinato piuttosto che un periodo di stage. È più difficile che in Italia un quarantenne riesca a inserirsi in una posizione del suo livello per la sua professionalità. Grazie Mauro Muraro per essere stato con noi e per averci raccontato la sua storia. Buona giornata. Grazie a voi, grazie, buongiorno. E noi andiamo a sentire una nuova puntata nella battaglia giudiziaria sui termini entro i quali poter effettuare l'aborto terapeutico. La Regione Lombardia aveva emesso delle linee guida, il TAR li aveva sospese, il Pirellone aveva fatto ricorso. Ma ora il Consiglio di Stato ha dato torto alla Regione guidata da Formigoni. Nessuna interferenza delle regioni nella legge che regola l'aborto. Va in questa direzione la sentenza del Consiglio di Stato che, come già aveva fatto il TAR, ha bocciato le linee guida volute dalla Regione Lombardia che andavano ad aggiungersi alla legge nazionale. La 194 vieta l'aborto dal momento in cui il feto può sopravvivere in modo autonomo. Un termine non definito, ma generalmente fissato a 24 settimane di gestazione. In Lombardia, però, l'ospedale milanese Mangiagalli dal 2004 si è dato un proprio codice di autoregolamentazione che anticipa il termine, salvo eccezioni, a 22 settimane e 3 giorni, considerando che da quel momento nella struttura dell'ospedale possa essere garantita la sopravvivenza del feto. Testo che la giunta guidata da Roberto Formigoni aveva voluto estendere a tutti gli ospedali lombardi, ma il Consiglio di Stato ha detto no, dando ragione ad un gruppo di medici. Già il TAR, peraltro, aveva dichiarato che la regione non poteva stabilire vincoli e che i medici erano tenuti solo al rispetto della legge nazionale e del codice deontologico. Nella pratica non cambia molto, visto che, seguendo l'esempio della Mangiagalli, altri ospedali lombardi si sono già dati un codice interno. Ma non finisce qui, promette il governatore lombardo. Il nostro provvedimento, ha commentato Formigoni, fotografa la realtà. Anna Migliorati, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura di questa parte, molto stiamo parlando di crisi, ci vuole una vignetta che incrocia la politica e la crisi economica ed è sulla prima pagina dell'Unità, a firma Staino, e sono il tipico personaggio di Staino, Bobo, che parla con la figlia. La figlia legge il giornale e chiaramente sono così simpatizzanti del Partito Democratico e chiede al padre: il 25 ottobre andiamo in piazza? E lui risponde: in piazza, in strada, in viale, dipende dove è messa la banca in cui hai versato i tuoi risparmi. GR Extra Large, queste sono le notizie della giornata. Nuova iniezione di liquidità, la BCE ha immesso sul mercato 70 miliardi di euro. Secondo la Banca Centrale Europea l'incertezza è straordinaria e la ripresa ci sarà forse nel 2009. Le borse sono in parziale recupero, come avete sentito, con rialzi intorno al 1,5%. Sarà eliminata dal decreto per Alitalia la norma che metteva in salvo i manager protagonisti dei crack finanziari. La legge prevedeva che non si potesse procedere penalmente nei confronti di chi era alla guida di aziende poi commissariate, ma solo in caso di fallimento. Il ministro Tremonti ha detto: o si toglie quella norma o io mi dimetto. Scuola arriva alla linea dura dei sindacati, sciopero il 30 ottobre per protestare contro i provvedimenti varati dal ministro Gelmini. Questa sera voto finale alla Camera sul decreto, poi toccherà al Senato. Fermato e ammanettato da 5 vigili perché il figlio non aveva la cintura di sicurezza mentre lo stava accompagnando a scuola. È successo ad un senegalese a Milano. Proteste dagli altri dei genitori che hanno assistito alla scena avvenuta davanti al bambino. E nella storia d'Italia, il 2008 è stato l'anno che ha fatto segnare l'arrivo del maggior numero di stranieri, più 17%, dice l'Istat, con quasi 500.000 di persone in più. I romeni arrivati nel nostro paese sono stati 280.000. Il Nobel per la letteratura è stato assegnato questa mattina al francese Jean-Marie Leclésiot. Gli accademici di Stoccolma lo definiscono autore di nuove sperimentazioni, avventure poetiche e di sensuale estasi, esploratore di un'umanità dentro e fuori la civiltà imperante. Approfondimento economico che dedichiamo ai mutui. Ieri le banche centrali, come vi abbiamo raccontato, hanno tagliato i tassi di interesse di mezzo punto. Ma cosa succederà per chi ha un mutuo? Ne abbiamo parlato a lungo questa mattina nella trasmissione Salvadanaio con Deborah Rosciani. Ora però vogliamo farne un po' un sunto, avere i punti principali di quello che potrebbe accadere. Allora, il punto viene fatto da Roberto Anedda, responsabile marketing di Mutui Online. Al momento quello che succede è che la tensione sui mercati finanziari tiene alto il costo del denaro, soprattutto misurato dall'indice Euribor, che è quello che si usa poi per calcolare i tassi dei mutui a tasso variabile. Quindi finché gli Euribor rimangono elevati, rimangono purtroppo elevati anche i tassi dei mutui e quindi le rate che le famiglie pagano. Questi tassi sono saliti parecchio in questi anni e soprattutto per la crisi hanno aumentato ulteriormente il costo dei mutui stessi. L'intervento della BCE di ieri è volto a portare maggiore tranquillità sui mercati, a cercare di dare maggiore liquidità al mercato stesso, perché poi la tensione crea proprio mancanza di liquidità nel sistema. Ovviamente non ci possiamo aspettare che tutto cambi da un giorno all'altro, tant'è vero che gli Euribor, nonostante il taglio di mezzo punto di ieri, oggi sono rimasti stabili, proprio perché comunque la preoccupazione ancora permane tra le banche, c'è poca fiducia nello scambiarsi moneta tra gli istituti bancari, quindi quello che potremo vedere è che gradualmente, man mano che passerà il tempo, che si riesce a gestire e ad affrontare la crisi, gli Euribor stessi potranno via via arretrare e quindi abbassare man mano anche il costo dei mutui stessi. Quindi chi ha un variabile al momento deve rassegnarsi al fatto che i tassi rimarranno comunque elevati ancora per parecchio tempo e non potrà dall'oggi al domani vedere le rate scendere di parecchio. Se nel frattempo non dovesse farcela, sicuramente vale la pena considerare le alternative di legge che il mercato offre, quali la portabilità o eventualmente una rinegoziazione. Come vi dicevamo, se ne è parlato questa mattina in Salvadanaio, molte delle risposte alle vostre domande le potrete trovare anche su internet www.radio24.it e riascoltare la trasmissione di questa mattina. I sindacati della scuola e delle notizie di questa mattina hanno indetto lo sciopero nazionale per il 30 ottobre contro il decreto Gelmini, quello insomma per intenderci che reintroduce il maestro unico, l'educazione civica e il voto in condotta e che questa sera fra l'altro incasserà l'ok della Camera. Era per poi passare la prossima settimana al Senato. Il via libera definitivo dovrebbe arrivare entro il 31 ottobre. La decisione dello sciopero dopo il nuovo incontro questa mattina fra sindacati e Ministero della Pubblica Istruzione. Massimo Di Menna della UIL Scuola al microfono di Maria Piera Ceci. Noi abbiamo posto il problema del togliere dal decreto legge di inizio d'anno l'articolo 4, quello che riguarda il maestro unico e il 24 ore di insegnamento, che tra l'altro questo aspetto non ha nessun carattere di urgenza perché riguarderebbe il prossimo anno scolastico e andrebbe la questione dell'organizzazione didattica della scuola primaria affrontata all'interno del piano programmatico che è la sede opportuna. Quindi sul maestro unico non c'è niente da fare, la Gelmini va avanti, poi? Invece per le altre parti del decreto legge noi pensiamo che debbano essere approvate entro il 31 di ottobre perché ci sono i voti condotti, l'educazione civica in corso d'anno scolastico non si può cambiare. Poi sul piano programmatico porta a 33 addirittura la riduzione del tempo prolungato di una giornata intera, nessuna trattativa sulle ricadute della riduzione del monte orario per le scuole superiori e soprattutto nessun impegno sull'aumento delle retribuzioni sia per il contratto sia per il i soldi aggiuntivi legati all'impegno e alla professionalità che non possono essere una riflessione da affrontare nel 2012 e poi vorremmo qualche elemento di garanzia o comunque di tutela anche per una diversa politica previdenziale per i precari perché la ricaduta dei tagli così netti che il decreto di Tremonti prevede avrà una ricaduta fortissima su tante persone che lavorano da tanti anni e che si troveranno senza un posto di lavoro. Ancora un caso di presunto razzismo, ancora sotto accusa i vigili urbani, questa volta però il caso riguarda Milano. Diop Moussa, senegalese che lavora regolarmente come caporeparto, sta accompagnando in macchina il figlio a scuola. Parcheggia e scende. Due vigili lo raggiungono, chiedendo patente e libretto, dicendo che il bambino viaggiava senza cintura di sicurezza. Lui vuole almeno accompagnare in classe il figlio. I vigili insistono, spingono a terra Moussa e lo ammanettano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Tutta la scena si svolge di fronte a scuola, davanti a bambini e genitori che parlano di reazione spropositata degli agenti. Di tutt'altro parere il vice sindaco di Milano Riccardo Decorato. Ho piena fiducia nei vigili, ha detto, e non c'entra nulla il razzismo. Gioia Reffo, GR24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di immigrati, proprio questa mattina l'Istat ha diffuso alcuni dati. Cresce il numero di cittadini stranieri in Italia. Al 1 gennaio 2008 erano quasi 3 milioni e mezzo rispetto ad un anno prima. L'incremento è stato di quasi mezzo milione, un più 16,8%. L'Istat scrive anche che l'aumento più elevato mai registrato nel corso della storia dell'immigrazione nel nostro paese. Forte aumento soprattutto degli immigrati di cittadinanza romena che sono cresciuti di 280.000 unità, un più 82,7%. Nella giornata mondiale della vista, alla quale Radio 24 ha dedicato un Radio Day, vi parliamo di un libro che racconta le storie straordinarie di alcuni non vedenti. Obiettivo del libro, rompere il pregiudizio che i ciechi non possano fare tante cose, come ci ha spiegato l'autore Mauro Marcantoni. Il cieco non è il suo limite. Il cieco è una persona normale che riesce a giocare la forza dei quattro sensi per raggiungere risultati a volte inaspettati. Quindi giocando e combinando meglio i quattro sensi residui ma anche il modo di pensare riesce a rompere quel limite che a volte sembra insuperabile. Questo pregiudizio, i ciechi non possono fare molte cose, è tipico solo delle cosiddette persone normodotate o anche degli stessi non vedenti? Ma anche noi ciechi viviamo questo limite a volte, perché un po' la rappresentazione sociale, un po' l'educazione ci indirizza verso scelte più semplici. Quindi io credo che ragionare su quel che possiamo fare diventa un'occasione forte per superare noi stessi i pregiudizi. In questo libro vengono riportate 80 storie di non vedenti che hanno raggiunto il successo. Possiamo fare alcuni esempi? Ma ci sono casi di tutti i tipi, ci sono persone che eccellono nello sport, dallo sci piuttosto che il tiro con l'arco, ci sono persone che si dedicano all'arte, la scultura o la pittura, e poi ci sono i molti mestieri come l'avvocato piuttosto che il restauratore che possono essere esercitati combinando in modo diverso quello che ciascuno di noi riesce a fare con la sua originalità. Quale fra queste storie l'ha colpita di più? Ma la storia di due genitori ciechi che hanno deciso di mettere su famiglia e hanno allevato in modo felice tre figli che rappresentano un caso esemplare di come anche la vita affettiva possa essere compiuta per un cieco. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Nuova iniezione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea. La BCE ha immesso sul mercato 70 miliardi di euro. L'incertezza è straordinaria, dicono da Francoforte. La ripresa ci sarà forse nel 2009. Le borse sono in parziale recupero, con rialzi intorno al 0,5%. Consigliamo agli italiani di non vendere le proprie azioni, ha detto pochi secondi fa il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ma di mantenerle perché tra 18-24 mesi il prezzo tornerà ad un livello giusto. Sarà eliminata dal decreto per Alitalia la norma che metteva in salvo i manager protagonisti dei crack finanziari. La legge prevedeva che non si potesse procedere penalmente nei confronti di chi era alla guida di aziende poi commissariate, ma solo in caso di fallimento. Il ministro Tremonti questa mattina ha precisato: o si toglie quella norma o mi dimetto io. Sciopero generale della scuola il 30 ottobre per protestare contro i provvedimenti varati dal ministro Gelmini. È arrivata stamattina la linea dura dei sindacati. Questa sera voto finale alla Camera sul decreto, poi toccherà al Senato. Fermato e ammenattato da 5 vigili perché il figlio non aveva la cintura di sicurezza mentre lo stava accompagnando a scuola. È successo ad un senegalese a Milano. Proteste degli altri genitori che hanno assistito alla scena avvenuta davanti al bambino. E nella storia d'Italia il 2008 è stato l'anno che ha fatto segnare l'arrivo del maggior numero di stranieri, più 17%, dice l'Istat, con quasi 500.000 di persone in più. I romeni arrivati nel nostro paese sono stati 280.000. E sempre il Presidente del Consiglio Berlusconi poco fa ha annunciato un accordo tra i ministri della giustizia e dell'interno italiani e quelli rumeni proprio sull'immigrazione. Il Nobel per la letteratura assegnato questa mattina al francese Jean-Marie Leclerc. Gli accademici di Stoccolma lo definiscono autore di nuove sperimentazioni, avventure poetiche e di sensuale estasi, esploratore di un'umanità dentro e fuori la civiltà imperante. Sapeva che l'inverno era finito quando sentiva il rumore dell'acqua. La neve durante l'inverno aveva ricoperto il villaggio. I tetti delle case e i prati erano tutti bianchi. Il ghiaccio aveva formato stalattiti sul bordo dei tetti. Poi il sole iniziava a scottare, la neve si scioglieva e l'acqua colava goccia a goccia da ogni davanzale, da ogni trave, dai rami degli alberi. E tutte le gocce si riunivano e formavano rivoli. I rivoli si gettavano nei ruscelli, mentre l'acqua scendeva gioiosamente per le strade del villaggio. È un brano dal libro Stella errante di Jean-Marie Gustave Leclerc, edito nel 2000 in Italia dal Saggiatore, anche se è un libro del 1992. Leclerc, ve l'abbiamo detto nei titoli, è il premio Nobel per la letteratura 2008. In questo libro raccontava la storia di una giovane ebrea che ha dovuto scoprire sulla propria pelle il tormento della segregazione razziale. Il libro è ambientato nell'estate del 1943. Le cose per questa giovane donna peggiorarono dopo l'8 settembre, quando il posto delle truppe italiane relativamente tolleranti era stato preso poi dall'esercito nazista. Insomma, uno scrittore che spesso e volentieri, come del resto recitano le motivazioni degli accademici di Stoccolma, si è occupato di temi sociali. Tant'è vero che, lo dicevamo nei titoli, gli accademici hanno detto che è un esploratore di un'umanità dentro e fuori la civiltà imperante. Buongiorno Giuseppe Scaraffia. Buongiorno. Lei è scrittore e francesista, dunque conoscerà benissimo l'opera di L'Ecclésio. Innanzitutto lo giudica un Nobel meritato? Abbiamo evidentemente dei problemi con Scarafia, che già stavamo cercando di raggiungere prima. Tra poco cercheremo di recuperarlo, adesso continuiamo però nel frattempo a parlare di libri per una storia molto particolare che ci arriva da Francoforte. Sì, una storia particolare. Francoforte è la fiera per eccellenza della compravendita dei diritti per i libri. Quest'anno inizierà il 15 ottobre, ma quest'anno c'è un'iniziativa un po' particolare, un concorso per la persona che più somiglia a Maometto. Sì, l'iniziativa è della rivista satirica tedesca Titanic. Abbiamo sentito, la nostra Cristina Balotelli ha sentito Leo Fischer, caporedattore della rivista, che spiega in cosa consiste questo concorso. Vorremmo assomigliare sempre più al profeta e per farlo leggeremo i nostri testi migliori dal punto di vista della satira e del divertimento. Vogliamo essere simili a lui attraverso i testi che saranno letti da comici e da commedianti. E poiché la Turchia è l'ospite d'onore della Fiera del Libro, vogliamo che sia Maometto l'angelo custode. Tutti competeranno per il premio presentando i loro testi, che non saranno necessariamente legati a Maometto, ma alla loro personale interpretazione dell'Islam. Quindi il concorso non consiste nel trovare qualcuno che somiglia a Maometto? Non esattamente. Vogliamo trovare quello più simile a lui in un senso spirituale. La vostra rivista è famosa per le sue illustrazioni satiriche e polemiche. Avete pensato alle conseguenze di questa iniziativa? No, nessun intento malvagio. Noi mettiamo semplicemente in pratica la parola del Corano, che dice che lo scopo del vero credente è di assomigliare sempre più a Maometto. E questo è quello che vogliamo fare anche noi. Quindi non posso pensare a nessuna conseguenza, perché le nostre intenzioni sono pure, senza alcun secondo fine. Ma qualcuno potrebbe fraintendere e prenderla male, potrebbero ricominciare le manifestazioni. Sì, ma siamo fiduciosi che questo non accadrà, perché i nostri obiettivi sono piuttosto chiari e non vogliamo nessuna polemica o violenza. La rivista danese Gilland Posten è diventata famosa dopo la pubblicazione delle vignette satiriche su Maometto. Anche la vostra rivista sta cercando pubblicità? No, affatto. Abbiamo tenuto, mi sembra, un basso profilo su questa iniziativa. Siamo riusciti a recuperare Giuseppe Scarafia, francesista e scrittore. Scarafia, molto brevemente le chiediamo se secondo lei è un Nobel meritato e in secondo luogo che cosa ne pensa lei di questo autore. Ma mi pare che sia da un bel po' di tempo che non sanno più a chi dare i Nobel. Diciamo che questo non è un Nobel indecoroso, ecco, sì, è ovviamente molto. Diciamo anche che sono pochi gli italiani che forse conoscono questo scrittore anche. Sì, è comunque insomma, uno scrittore appartato, diciamo che è un tardivo premio a quello che resta la coda di un'avanguardia. Infatti la motivazione è stata quella, no? La sua opera di rottura, l'avventura poetica, l'estasi sensuale, l'esploratore di un'umanità estranea alla civiltà imperante. Insomma, dà l'impressione che gli accademici di Svezia abbiano perso da tempo il contatto con la realtà e operano in base a degli schemi o casuali o ideologici molto precisi. E lei lo conosce l'Ecclésio? Le piace? Non tanto. Diciamo, ecco, non è un cattivo autore, è un autore un po' legnoso, con degli effetti ripetitivi e insomma non fa del male. Ecco. Insomma, lei a chi l'avrebbe dato il Nobel? Ma volendo fare l'avanguardia l'avrei data a Michel Butor. Michel Butor è molto più bravo, è una scrittura ottima, però ecco, neanche lui era un caso da Nobel. Sono pochissimi i casi da Nobel, bisognerebbe anche avere il coraggio, se non c'è motivo, di non darlo. Grazie a Giuseppe Scarafia, scrittore francesista, anche per questa posizione coraggiosa. Il Nobel, se non si riesce a darlo, è meglio non darlo, insomma. Buona giornata. Grazie, buongiorno. Adesso parliamo di economia. NTV, la società privata di trasporto ferroviario che fa capo a Luca di Montezemolo, ha scelto il suo partner industriale. Insomma, in qualche modo rimaniamo in Francia. Nuovo trasporto viaggiatori sceglie la Società Nazionale delle Ferrovie Francesi SNCF come partner industriale con una quota del 20%. L'azienda francese, che nell'81 lanciò il primo TGV, è la più importante del mondo nell'alta velocità. Parola di Luca Di Montezemolo, presidente di NTV, che spiega i motivi di questa scelta. Abbiamo scelto loro perché sono i migliori al mondo nell'alta velocità, perché sono i più bravi nella distribuzione elettronica dei biglietti e della prenotazione, perché ci auguriamo con loro in futuro di fare anche delle operazioni fuori dall'Italia. La compagine rimane italiana all'80%, totalmente privata. Il primo treno NTV partirà nel 2011. L'obiettivo del gruppo è di acquistare una quota di mercato del 20% e di trasportare 10 milioni di passeggeri l'anno entro il 2015. Il gruppo di Montezemolo pagherà inoltre 140 milioni di euro alle Ferrovie Italiane per l'utilizzo dei binari dell'alta velocità. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi chiudiamo in un modo particolare, con un saluto, quello del nostro direttore. È il mio ultimo giorno da direttore ed è ovviamente l'ora dei ringraziamenti. Il primo è per Innocenzo Cipolletta. Da presidente dell'editoriale Il Sole 24 Ore, Cipolletta nel 2005 mi chiamò alla direzione di questa radio e voi direte grazie, che lo ringrazia. No, non è così. Vedete, Innocenzo Cipolletta mi assegnò degli obiettivi e mi assicurò libertà e autonomia responsabili per conseguirli. Non accade sempre. Grazie, presidente. Perché vedete, è stato grazie a questa libertà garantita da Cipolletta che su Radio 24 voi ascoltatori avete sentito, per esempio, i nomi di tutte e 500 le industrie italiane coinvolte dall'indagine americana sullo scandalo tra ONU e Iraq, detto Oil for Food. Oppure le voci di tutti gli imprenditori che, grazie a un siciliano, Ivan Lobello, hanno denunciato il pizzo e la mafia. È la stessa libertà con cui abbiamo viaggiato anche nelle contraddizioni e le ipocrisie del nostro paese, che dovrebbe essere un paese moderno. Per esempio, è la stessa libertà con cui abbiamo scandito i giorni che Previti ha passato abusivamente in Parlamento, nonostante una legge prevedesse l'incompatibilità con la carica per i condannati in via definitiva per reati gravi. È la stessa libertà con cui abbiamo ricordato ogni giorno le perdite dell'Alitalia. Più che compagnia aerea, direi, la definirei grande sistema di welfare per gli amici delle caste. E abbiamo duramente criticato l'indulto, il tesoretto, il balletto sui diritti dei conviventi, la politica sulla sicurezza del centrosinistra. La stessa libertà con cui abbiamo incalzato Fassino sul caso Unipol e Berlusconi quando diceva che lui sì che aveva fatto le grandi privatizzazioni, e non era vero. Abbiamo incalzato Casini e Di Pietro. Radio 24 ha offerto una poltrona per due a tutti, a Prodi, che accettò, ma dopo sei numeri ha stizzosamente rinunciato con una lettera autografa a me diretta, e a Berlusconi, che invece non ha mai risposto. Il secondo grazie, questo va alla redazione. Tutti insieme abbiamo fatto una radio non reticente, non distratta, non ipocrita e anche ricca di memoria. E non priva di successo, se è salita da 1.400.000 ascoltatori ai 2.400.000 di oggi, coniugando quantità e qualità. Sapete che questo non riesce sempre. Il terzo grazie va agli ascoltatori, che con la loro scelta ci hanno fatto crescere del 40%. E a proposito di ascoltatori, consentitemi una civetteria, una citazione speciale. Un grazie particolare a due suore, Suor Maria Rosa e Suor Maria Rita. Non si conoscono e da comunità lontanissime tra loro, con le loro consorelle, seguono Radio 24 da anni senza risparmiarmi critiche. Grazie anche a loro. Infine, lasciatemi definire stucchevole cercare di etichettare Radio 24 come radio di destra o di sinistra. Ha fatto solo il cane da guardia a chi a turno, vincendo le elezioni, assume tutti i poteri. Non siamo piaciuti a tutti? E da quando in qua un giornalista deve piacere a tutti? Ed ora infine un augurio. Va al mio successore, a Gianfranco Fabi, un collega che appartiene a una grande e autorevole scuola giornalistica, quella del Sole 24 Ore, il quotidiano finanziario più diffuso in Europa. Una garanzia. E l'augurio è quello di andare oltre. Dalla crisi ricadute pesanti, dice la BCE, che inietta altri 100 miliardi di dollari sul mercato, borse in lieve ripresa. Non vendete le azioni, dice Berlusconi. Porta il figlio a scuola senza cintura di sicurezza, fermato e ammanettato dai vigili urbani di Milano un senegalese. O io o lei, dice Tremonti, la norma che salva i manager dei crack finanziari verrà cancellata. Contro la Gelmini, sciopero generale, i sindacati della scuola fermano tutto il 30 ottobre. Il Nobel per la letteratura assegnato questa mattina al francese Jean-Marie Leclerc. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Se volete scriverci, extralarge@radio24.it, se volete riascoltarci, www.radio24.it. Il prossimo GR alle 15, Extra Large torna come sempre domani alle 13. GR24, il sole 24 ore. Direttore Giancarlo Santalmassi.